Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali, i mensili italiani e stranieri. Da venerdì con il Sole 24 ore trovate in edicola il nostro mensile, la sigla sta per Intelligence in Lifestyle, la copertina questo mese è dedicata al potere delle donne, donne impegnate anche in mestieri, in attività che si vorrebbero più maschili, quindi campeggia proprio in copertina una donna soldato. Contro, spiega la stessa copertina, quell'idea di femminilità che è imposta in qualche modo dalla TV, da Belen a Ruby. All'interno poi una serie di servizi dedicati a questo tema, ma io invece vi voglio parlare di tutt'altra questione, perché poi ci sono delle coincidenze interessanti con altri magazine che abbiamo sfogliato qui in redazione. Vi voglio parlare di gomme, perché apprendo da Green Report, che sono le pagine dedicate proprio alle questioni ambientali, che un problema grossissimo è per le amministrazioni municipali è quello di rimuovere i chewing gum che gettiamo sconsideratamente a terra dopo averli masticati. Perché? Perché questo chewing gum resta 6 anni sull'asfalto, lo ricordavamo già nella puntata di ieri, rimuoverlo a costi molto elevati, e quindi si è scoperto che la gomma americana provoca alla fine più danni all'ambiente di quanto addirittura non facciano le sigarette. Parliamo dell'ambiente chiaramente, non dei danni ai propri polmoni, alla propria salute. Il solo governo di Londra, ci informa Paola Stringa dalle pagine di Il, arriva a spendere oltre 150 milioni di sterline all'anno per rimuovere i chewing gum gettati dai masticatori sui marciapiedi di Sua Maestà. Restano questi derivati, restano per almeno 6 anni sull'asfalto. Per rimuoverli bisogna intervenire con acqua, solventi, raschianti, con costi molto elevati. Addirittura a Singapore hanno vietato l'importazione delle gomme da masticare. Adelaide invece ne ha vietato il commercio, e poi c'è anche qualche comune che sta pensando di multarne il consumo per strada. Nella metropolitana di Tokyo, leggo sempre dalla corrispondenza di Paola Stringa, c'è da qualche anno un cartello informativo fatto a fumetto che mostra i danni provocati dai chewing gum gettati per terra. Ci sono anche alcune città italiane che hanno iniziato campagne di sensibilizzazione per scoraggiare il tappeto di gomma. Tra queste città, Bari, Lecce, Firenze e Ragusa. Addirittura ci sono alcune città hanno vietato in alcuni posti, come le palestre, l'utilizzo dei chewing gum. Per risolvere questo problema ci sono le società che stanno sorgendo e si concentrano sul recupero dei chewing gum masticati. Possono essere riciclati, possono essere riutilizzati, e ci sono anche allo studio delle gomme da masticare biodegradabili. La cosa più promettente sembra venire dal Messico, perché da poco è sul mercato una gomma che si chiama Cixza. È una gomma da masticare prodotta naturalmente, che si ottiene dall'impasto tra caucciù, zucchero e aromatizzanti. Spiegano quelli che la stanno commercializzando in Italia, stanno cominciando a commercializzarla in Italia. È una vera rivincita della cultura Maya sul potere delle multinazionali. Sarà forse così. Di fatto è che il comportamento di gettare indiscriminatamente a terra le gomme da masticare è qualcosa che non solo è maleducato, ma crea anche un sacco di problemi a chi poi deve gestire questo tipo di rifiuto. Restiamo però in questo tema elastico della gomma, perché su Focus di questo mese, su Focus di novembre, l'abbiamo già segnalato per altri articoli nelle puntate scorse, c'è proprio un reportage sul mondo di gomma, cioè tutta la gomma che è nelle nostre vite, e da cui si scopre tra l'altro che l'uso della gomma da masticare è antichissimo, perché risulta che già gli antichi greci masticassero 2500 anni fa una versione antica del chewing gum. In India e in Pakistan si usa da tempo immemorabile una gomma, la gomma di guar, per la lavorazione del pane. Poi c'è la gomma arabica, che oltre che per il pane si usa per migliorare anche la qualità dei vini rossi o la viscosità degli inchiostri. Naturalmente la gomma di cui noi ci circondiamo più spesso è quella che deriva dalla scoperta di Colombo. Fu Colombo a portare in Europa il caucciù, aveva portato questo campione del materiale che gli aztechi usavano per impermeabilizzare le superfici. Spiega Focus, nessuno si entusiasmò per questa sostanza che si induriva nel tempo e diventava poi appiccicosa invece quando si scaldava, e le potenzialità della gomma divennero chiare molto più tardi, cioè nel 1839, quando un signore chiamato Charles Goodyear, e avrete già capito poi qual è stata la sua fortuna, scoprì il processo di vulcanizzazione, cioè mescolò lattice e zolfo in presenza di calore e ottenne quindi un materiale che manteneva elasticità ma diventava resistente agli sbalzi di temperatura. E così via per ricostruire poi l'evoluzione moderna delle gomme. C'è anche una serie di date importanti, la gomma da cancellare ad esempio è un oggetto che risale al 1770, è stato inventato appunto in quell'epoca. Poi la prima fabbrica di gomma a Parigi è del 1803 e ancora sulla gomma da per tornare sulla gomma da masticare, la prima gomma da masticare moderna fu messa in vendita nel 1848, per la precisione era un miscuglio di resina d'abete rosso e di cera d'api, era una ricetta che veniva usata già da tempo dai nativi americani. Tra l'altro il termine chicles, da cui anche cicca, con il quale talvolta chiamiamo la gomma da masticare, è un termine che ha addirittura origini azteche, perché gli aztechi, unendo il lattice dell'albero della sapotiglia a un catrame aromatico, ottenevano una poltiglia che si chiamava appunto cicli, da lì il chicles che sembra poi arrivare a noi quindi direttamente dagli aztechi. Torniamo un istante su Hill, perché la gomma da masticare, specialmente in forza delle norme più severe contro il fumo da sigaretta, si collega direttamente, almeno per i fumatori, a come sostitutivo appunto della nicotina bandita dai locali pubblici in sempre più stati nel mondo. Anche da noi, come sapete, l'Italia ha una legge decisamente all'avanguardia, molto severa, sull'uso delle sigarette nei locali aperti al pubblico. Si scopre però da Hill, e ve lo voglio segnalare, che la prima campagna antifumo è molto più antica e risale addirittura alla Germania di Hitler. Questo naturalmente non vuol dire che ci schieriamo contro le campagne antifumo, ci mancherebbe altro, è solo una notazione storica. Però, come scrive Alec Ash appunto su Hill, per sorprendente e inquietante che possa sembrare, la prima campagna antifumo la lanciarono i nazisti. Partì in tono dimesso, con manifesti e annunci sulle riviste sanitarie, ma alla fine arrivò alla messa al bando del fumo negli uffici del Partito Nazionalsocialista, sui tram e nei rifugi antiaerei, che in molti casi allestirono degli spazi separati per fumatori. Il collegamento fra il cancro ai polmoni e il fumo fu dimostrato per la prima volta proprio in Germania nel 1939, quindi in piena epoca nazista, e il termine passive Rauchen, quindi fumo passivo, fu coniato dalla Lega tedesca antitabacco. La Germania era all'avanguardia nelle ricerche sull'impatto del fumo sulla salute. Il movimento antifumo toccò il suo apice all'inizio degli anni 40 con una legge molto rigida, restrizioni alla pubblicità sul tabacco e anche una razione militare di appena 6 sigarette al giorno per i soldati al fronte. Qui si precisa poi che questo impulso veniva dall'alto perché Hitler detestava le sigarette, pur essendo stato in gioventù un fumatore accanito, si dice che fumasse addirittura 40 sigarette al giorno quando aveva 20 anni. Condannò invece in seguito questo tipo di vizio, questa dipendenza, e quindi decise che il fumo non era adatto, andava bandito. Però c'è là dietro, come avete sentito, anche un lavoro molto serio, molto accurato sui danni provocati appunto dal fumo. Le donne fumatrici, poi lì la propaganda naturalmente faceva la sua parte, erano anche considerate inadatte a essere mogli e madri tedesche. Tanto sforzo non riuscì però a contenere la crescita dei consumi, perché risulta che fino a che non ci furono razionamenti, quindi nel periodo dal 1933 fino al 1937, il consumo di tabacco in Germania continuò a crescere. Diminuì soltanto appunto quando l'uso del tabacco e l'uso delle sigarette venne razionato dall'alto. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. La lunga digressione nella Germania nazista, per ricordare che le prime campagne antifumo sono venute proprio dal Terzo Reich, perché appunto Hitler, da ex fumatore, era particolarmente agguerrito contro i fumatori e cercava di impedirne la diffusione, di impedire l'uso del tabacco. Ma tutta questa lunga digressione nel passato ci porta molto vicini al tema che viene affrontato questa settimana da Umberto Eco nella sua rubrica sull'Espresso. La rubrica, come sapete, si chiama La bustina di Minerva. Il titolo già è curioso, questa settimana è stata intitolata Chi era costui? Perché chi era costui? Perché è una riflessione sulla progressiva perdita di memoria collettiva che sembra affliggere un po' tutti quanti, non solo i mezzi di comunicazione, ma proprio anche tutti noi come individui. Perdita di memoria, di attenzione, meglio, per il nostro passato. Spiega Eco: verso la fine degli anni 50, nei fumetti americani, quando il protagonista si spostava indietro nel tempo e capitava nel Medioevo, i personaggi apparivano vestiti in abiti 5-600, quindi con un discreto sbaglio temporale, uno sbaglio non trascurabile. Però, dice, era l'epoca in cui nei film i detective americani arrivavano su automobili lunghe 10 metri con giacche enormi non sciancrate, e si ironizzava su quei cafoni per i quali tutto quello che era avvenuto prima della guerra di secessione era ormai età della pietra. Quindi una poca attenzione per la memoria. L'America del resto è infastidita dal passato, argomenta Eco. Se Bush avesse letto cronache del secolo prima, magari avrebbe appreso che nessun esercito europeo, né russo né inglese, è mai riuscito a vincere sui monti dell'Afghanistan. Naturalmente si parla dell'America della gente comune, perché nelle università queste cose si sanno, però poi nessuno al Pentagono prende sul serio i professori universitari, come del resto ironizza anche su se stesso Umberto Eco, anche da noi. Ma il fatto è che ci siamo tutti civilizzati, siamo tutti americani. Da tempo ci si stupisce come mai i nostri studenti intervistati confondano Moro con Curcio, credono che De Gasperi fosse un leader comunista. Eppure noi ragazzini alla fine degli anni 30 sapevamo che il ministro Regio ai tempi della marcia su Roma era l'imbelle facta, e una mia collega si è poi accorta mesi fa che quando i suoi allievi citava Woody Allen, i suoi allievi non ridevano. Si è poi resa conto che Woody Allen, che pure ha sedotto un'intera generazione alla fine degli anni 60 e nei decenni seguenti, è ormai ignoto alle matricole, ai giovani studenti universitari di oggi. Però, si chiede Eco, noi quando eravamo piccoli sapevamo benissimo chi era stato, prima della nostra nascita, Ridolini. Quindi, facendo il paragone sempre con un comico, una mancanza di attenzione per il passato anche in questo caso. Nell'articolo, nella sua rubrica poi, Eco se la prende anche un po' coi giornalisti. Dice: una volta c'erano capi redattori ai quali non sfuggiva una virgola, prima di andare in stampa controllavano tutto riga a riga, adesso non è raro trovare degli strafalcioni, anche appunto storici, di carattere storico, notevoli. Però è anche poco comprensibile che nessuno abbia più questa attenzione per appunto i dettagli del passato. Non è solo colpa dei giornali, è colpa di una contemporaneità, scrive Eco, senza memoria. E la nostra è proprio, questa è poi la frase che viene scelta per essere evidenziata a parte, la nostra è una contemporaneità senza memoria. Non sappiamo se questo sia vero, questa è la diagnosi però di Eco, e probabilmente nella sua osservazione c'è molto di vero. E allora proviamo noi a dare un po' di memoria, anche se di memoria davvero molto molto a breve termine, perché vorrei parlare di Roberto Baggio. Perché parlo di Roberto Baggio? Perché su Vanity Fair c'è una bella intervista fatta da Gabriele Romagnoli proprio a Roberto Baggio, che nelle sue prime righe precisa proprio qual è stato, quale sia tuttora il carisma di questo calciatore, che poi recentemente è stato anche insignito di una particolare onorificenza consegnatagli dai Nobel, e gli hanno dato una specie di premio per la pace, quasi un vice Nobel. Ora è a Coverciano per insegnare, scrive Romagnoli, ai nostri ragazzi come si gioca a pallone. Ma vi leggo l'attacco di questa intervista che, ripeto, trovate su Vanity Fair. Al decimo giro di campo, percorrendo in cerchio l'immenso prato davanti alla sua villa, dice questa cosa: io giocavo per far divertire la gente. E la gente l'ha capito. Quando ho raccontato che stavo partendo per intervistare Roberto Baggio, ho visto facce, ho sentito commenti come nemmeno per il Dalai Lama in persona, da qualunque parte venissero, dalla Padania dove si è esibito o dal sud dove non ha mai mosso piede. Lo amano ancora tutti e nonostante tutto, perdonandogli cose che agli altri umani mai. I fiorentini ne adorano il ricordo nonostante sia passato la Juventus. Le due sponde di Milano gli fanno grazia delle incompatibilità e del comune fiasco, cui forse un po' severo Romagnoli. La provincia lo sente suo anche laddove si è soltanto schierato contro. La verità è che Baggio è stato l'ultimo grande calciatore italiano, nazionale e non particolare, unico ma condivisibile. E poi via via nell'intervista si racconta, si cerca di raccontare di questo carisma di Baggio. Vi segnalo solo qualche passaggio un po' più forse per gli appassionati. Dice: io avevo un sogno, dice Baggio, era giocare la finale dei mondiali contro il Brasile, e poi ci è arrivato a giocare questa finale, purtroppo per noi conclusasi malamente. Come gli chiedono, come ti sei sentito quando questo sogno si è realizzato? Guarda, non ho fatto in tempo a capire. Abbiamo giocato la semifinale con la Bulgaria, preso l'aereo da New York, sbarcati nel forno di Los Angeles, non mi sono neppure reso conto. Hanno detto che non eri in condizione, hai voluto esserci lo stesso. Lui risponde: ho giocato 120 minuti, questa mi sembra la risposta. Ero a pezzi, ma lo eravamo tutti, i brasiliani erano già lì da un pezzo, abituati e rilassati. Questa è la indicazione di Roberto Baggio, e gli chiede Romagnoli: ma non hanno poi vinto 3-0 però i brasiliani? Magari, in che senso? Perché se perdi 3-0 te ne fai una ragione, e in fondo è meglio per tutti, per chi vince e per chi perde. Un altro dettaglio su Roberto Baggio poi lo trovate, se volete, sul Venerdì con Repubblica, perché Mazzone, questa volta l'intervista è a Mazzone, ricorda proprio gli anni di Roberto Baggio al Brescia. Dice: Baggio era emarginato in Italia, ricorda Mazzone, la sua carriera era chiusa, seppi che voleva andare a Reggio, colsi la palla al volo, lo chiamai, mi disse: magari mister, e ha fatto altri 4 anni straordinari. Questo è il ricordo appunto di Mazzone, che invece trovate sul Venerdì di Repubblica. Sempre sul Venerdì e sempre nella stessa intervista, poi c'è invece un dettaglio che riguarda proprio Carletto Mazzone. Dice: a Brescia lei fece la famosa corsa sotto la curva dell'Atalanta, gli ricorda l'intervistatore Matteo Nucci, una curva che diciamo non fu proprio un capolavoro di fair play, e lui dice scherzosamente: no, non ero io, era mio fratello gemello, ma fu un errore, mi avevano toccato gli affetti più cari, mia madre, la mia città, perdevamo 3-1, e qui ritorna Baggio fece il 3-2 e stavo già scoppiando. Poi Baggio segnò il pareggio e non ci vidi più. Colpa sua, gliel'ho detto sempre. Ci ho rimesso anche la candidatura in nazionale. Questo ricorda Carletto Mazzone, sempre a proposito di Roberto Baggio. E con questa citazione per Baggio si conclude la nostra puntata. Io ringrazio Filippo Aureggi, anche questa mattina in regia. Grazie ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna sabato prossimo.